nonostante la rottura con la padrona, i Cambremer non erano in fretta con i fedeli e salivano volentieri nel nostro scompartimento quando viaggiavano sulla linea. Nei momenti che precedevano il nostro arrivo a Deauville, Albertine, estratto un'ultima volta il suo specchio, trovava non di rado opportuno cambiarsi i guanti o togliersi un istante il cappello, e col pettine di tartaruga che le avevo regalato e che portava nei capelli, ne lisciava le bande, ne ravvivava la vaporosità e, se occorreva, al di sopra delle ondulazioni che scendevano in volute regolari sino alla nuca, sistemava lo chignon. Una volta saliti nelle carrozze che ci aspettavano, non si sapeva più dove si fosse. Le strade non erano illuminate. Capivamo dal rumore più forte delle ruote che stavamo attraversando un villaggio. Ci credevamo arrivati. Ci ritrovavamo in aperta campagna. Sentivamo delle campane lontane. Ci dimenticavamo di essere in smoking ed eravamo quasi assopiti quando, al termine di quel lungo margine d'oscurità che, a causa della distanza percorsa e degli incidenti caratteristici di ogni tragitto in ferrovia, sembrava averci portati sino a un'ora inoltrata della notte e quasi a metà strada ad un ritorno a Parigi, di colpo, non appena resi consci da uno scorrere della carrozza su una sabbia più fine, d'essere entrati nel parco, esplodevano, reinserendoci nella vita mondana, le luci abbaglianti del salotto, poi della sala da pranzo, dove ci sentivamo bruscamente riportati all'indietro, sentendo suonare un'ora, le 8, che credevamo passata da tempo, mentre le portate numerose e i vini pregiati cominciavano a susseguirsi attorno a uomini in frac e a donne scollate, in un pranzo rutilante di luce come un vero pranzo di città, circondato tuttavia, e tanto bastava a mutarne il carattere, dal doppio nastro scuro e singolare che avevano tessuto, abbandonando per tale impiego mondano la loro solennità primitiva, le ore notturne, campestri e marine, dell'andata e del ritorno. Quest'ultimo ci costringeva in effetti ad abbandonare lo splendore sfavillante subito dimenticato del salotto luminoso per le carrozze, dove facevo in modo di ritrovarmi con Albertine per evitare che la mia amica stesse con altri senza di me e spesso anche per un'altra ragione, cioè che potevamo fare molte cose noi due in una vettura buia dove, fra l'altro, gli scossoni della discesa permettevano di scusare, nel caso che un raggio fosse filtrato all'improvviso, il fatto d'essere abbarbicati l'uno all'altra. Quando non aveva ancora rotto con i Verdurin, il signor di Cambremer mi chiedeva: «Non pensate che con questa nebbia vi verranno le soffocazioni? Mia sorella ne ha avute di terribili stamattina. Anche a voi succede», aggiungeva con soddisfazione. «Stasera glielo dirò. Sono certo che appena a casa vorrà sapere subito se è molto che non ne avete». Non mi parlava delle mie, d'altronde, che per arrivare a quelle di sua sorella, e non mi faceva descrivere le caratteristiche delle prime che per sottolineare meglio i particolari che le differenziavano dalle seconde. Malgrado ciò, poiché gli sembrava che le soffocazioni di sua sorella dovessero fare testo in materia, non poteva credere che quanto giovava alle sue non fosse indicato anche alle mie, e si irritava che io non provassi quei rimedi, giacché c'è qualcosa di ancora più difficile che seguire una cura, ed è non volerla imporre agli altri. Del resto, che sto mai a dire io, povero profano? Siete dinanzi all'Areopago, alla fonte del sapere. Cosa ne pensa il professor Cottard? Comunque, rividi sua moglie un'altra volta, perché aveva detto che mia cugina era un tipo strano e volli sapere cosa avesse inteso dire. Negò d'essersi espresso in quel modo, ma finì con l'ammettere d'aver parlato di una persona che le era parso di incontrare insieme a mia cugina. Non ne conosceva il nome e alla fine disse che, se non si ingannava, era la moglie d'un banchiere e si chiamava Lina, Linette, Lisette, Lia, qualcosa del genere. Pensai che moglie d'un banchiere fosse escogitato solo per confondere meglio la pista e volli chiedere ad Albertine se era vero. Ma preferivo avere l'aria di chi sa, non quella di chi domanda. D'altronde Albertine non m'avrebbe risposto, o avrebbe risposto con un no, dalla N troppo esitante e dalla O troppo decisa. Albertine non raccontava mai fatti che potessero nuocerle, ma altri che potevano spiegarsi solo con i primi, giacché la verità è piuttosto una corrente originata da quanto ci viene detto e afferrabile, sebbene invisibile, che non la cosa detta in quanto tale. Così, quando le assicurai che una donna da lei conosciuta a Vichy aveva una cattiva reputazione, mi giurò che quella donna non era affatto come credevo e non aveva mai tentato di indurla al male. Ma un altro giorno, poiché parlavo della mia curiosità per quel genere di persone, aggiunse che la signora di Vichy aveva anche un'amica che lei, Albertine, non conosceva, ma che la signora le aveva promesso di farle conoscere. Se glielo aveva promesso, voleva dire dunque che Albertine lo desiderava o che la signora sapeva, nel proporglielo, di farle piacere. Ma se io avessi fatto ad Albertine questa obiezione, le avrei indicato che l'unica fonte delle mie rivelazioni era lei, ne avrei provocato l'immediata interruzione, non avrei saputo più niente, non sarei più stato temuto. D'altronde eravamo a Balbec. La signora di Vichy e la sua amica abitavano a Menton. La distanza, l'assenza del rischio ci misero ben poco a distruggere i miei sospetti. Spesso, quando il signor di Cambremer mi interpellava dalla stazione, io avevo appena finito con Albertine di approfittare delle tenebre, e tanto più a fatica in quanto lei s'era un po' dibattuta temendo che non fossero abbastanza complete. Sapete, sono sicura che Cottard ci abbia visti. Del resto, anche senza vederci, avrà certo sentito la vostra voce soffocata, proprio mentre si parlava di soffocazioni di tutt'altro genere, mi diceva Albertine, arrivando alla stazione di Douville, dove riprendevamo il trenino per il ritorno. Ma non diversamente dall'andata, questo ritorno, se ridestava in me, attraverso qualche impressione di poesia, il desiderio di viaggiare, di condurre una vita nuova, ispirandomi così il proposito ad abbandonare qualsiasi progetto di matrimonio con Albertine e persino di troncare definitivamente i nostri rapporti, me la rendeva anche più facile, tale rottura, a causa della loro stessa contraddittorietà. Infatti, al ritorno come all'andata, ad ogni stazione salivano con noi o ci salutavano dal marciapiede persone che conoscevamo. Sui piaceri furtivi dell'immaginazione dominavano quelli ripetitivi della socievolezza, che sono così distensivi, così ipnotici. Già prima ancora delle stazioni, i loro nomi, che tanto m'avevano fatto sognare dal giorno in cui li avevo sentiti la prima sera del viaggio con la nonna, si erano umanizzati. Avevano perduto la loro singolarità dalla volta in cui Brichot, su preghiera di Albertine, ce ne aveva spiegato per filo e per segno le etimologie. Avevo trovato affascinante il fiore con cui finiscono certi nomi. Fiquefleur, Honfleur, Flair, Barfleur, Arfleur, eccetera. E divertente il bue che c'è in fondo a Briquebeuf. Ma il fiore scomparve, e il bue anche, quando Brichot, e me l'aveva già detto questo il primo giorno in treno, ci rivelò che Fleur vuol dire porto, come fiord. E Beuf, in normanno Bud, significa capanna. Poiché citava numerosi esempi, ciò che m'era parso particolare si generalizzava. Briquebeuf andava a raggiungere Elbeuf, e persino in un nome che, a tutta prima, aveva un aspetto non meno individuale del luogo, come Pendefilly, dove le bizzarrie più impossibili da elucidare con la ragione mi sembravano amalgamate da tempo immemorabile in un vocabolo brutto, saporito e duro come certo formaggio normanno, fui desolato di rintracciare il Pen gallico, che significa montagna e si trova tanto in Pen Marsh come negli Appennini. Poiché a ogni fermata del treno prevedevo che avremmo avuto mani amiche da stringere, se non visite da ricevere, suggerivo ad Albertine: sbrigatevi a chiedere a Brichot i nomi che volete sapere. Mi avevate parlato di Marcouville l'Orgueilleuse. Sì, mi piace molto quell'orgoglio, è un villaggio fiero, disse Albertine. «Lo troveresti ancora più fiero», rispose Brichot, «se invece della forma francese o addirittura di quella bassolatina attestata dal cartulario del vescovo di Bayeux, Marco Villa Superba, prendeste la forma più antica, più vicina al normanno, Marculfi Villa Superba, il villaggio, il dominio di Marculf». In quasi tutti i nomi che terminano in ville, potreste ancora vedere su questa costa levarsi il fantasma dei rudi invasori normanni. A Ermenonville avete visto, in piedi davanti allo sportello del treno, solo il nostro eccellente dottore, il quale evidentemente non ha nulla del condottiero norreno. Ma chiudendo gli occhi avreste potuto vedere l'illustre Erimund, Erimund di Villa. Sebbene, non so perché, si preferisca percorrere le strade comprese fra Loigny e Balbec Plage, che non quelle assai pittoresche che conducono da Loigny alla vecchia Balbec, Madame Verdurin vi ha forse fatto fare qualche passeggiata in carrozza da quelle parti. E allora avrete visto Ancarville, o villaggio di Viscar, e Tourville, prima d'arrivare da Madame Verdurin, è il villaggio di Tourhold. D'altronde non ci sono stati solo normanni. Sembra che dei tedeschi siano arrivati fin qui. Homenoncourt, Alemanni Curtis. Non diciamolo al giovane ufficiale che vedo laggiù. Sarebbe capace di non voler più andare a casa dei suoi cugini. Ci sono stati anche dei sassoni, come testimonia la fonte di Sison, meta di una delle passeggiate preferite da Madame Verdurin, e giustamente, così come in Inghilterra, il Middlesex, il Wessex. Sembra cosa inesplicabile che dei goti, dei gueux, come si diceva, siano arrivati fin qui, e anche i mori, giacché Mortagne viene da Mauretania. Ne è rimasta traccia a Gourville, Gotorum Villa. Del resto esistono anche vestigia dei latini, come Lagny, Latiniacum. «Io chiedo la spiegazione di Torpe Homme», intervenne il signor di Charlieu. «Capisco Homme», aggiunse, mentre lo scultore e Cottard si scambiavano uno sguardo d'intesa. «Ma Torf?» «Homme non significa affatto quello che siete naturalmente portato a credere, barone», rispose Brichot, guardando maliziosamente Cottard e lo scultore. «Homme non ha nulla a che vedere col sesso cui non devo mia madre. Homme è Holm, che significa isoletta, eccetera. Quanto a Torf, villaggio, lo si ritrova in 100 parole con le quali ho già tediato il nostro giovane amico. In Torpe Homme, insomma, non ci sono nomi di capi normanni, ma parole della lingua normanna. Come vedete, tutta la regione è stata germanizzata. Credo che stia esagerando, obiettò Charlieu. Sono stato ieri a Orgeville. Questa volta vi restituisco l'uomo che vi ho sottratto in Torpe Homme, barone. Sia detto senza pedanteria, una carta di Roberto I ci dà per Orgeville Otger Villa, il dominio di Otger. Tutti questi nomi sono quelli di antichi signori. Octeville Avenel viene da Lavenel. Gli Avenel erano una famiglia nota nel Medioevo. Bourgenol, dove Madame Verdurin ci ha portati l'altro giorno, si scriveva Bourg de Mol, perché il villaggio appartenne, nell'undicesimo secolo, a Baudouin de Mol, così come la Chaise Baudouin. Ma eccoci a Doncières. Mio Dio, chissà quanti tenenti cercheranno di salire, disse Charlieu con uno spavento simulato. Lo dico per voi, a me non disturba affatto, visto che scendo. Avete sentito, dottore? Commentò Brichot. Il barone teme che qualche ufficiale lo calpesti. Eppure è più che giusto che si trovino ammassati qui, perché Doncières è né più né meno che Saint-Cyr, Dominus Ciriacus. Ci sono molti nomi di città in cui Sanctus e Sancta sono sostituiti da Dominus e Domina. Del resto questa città calma e militare prende, di tanto in tanto, una certa aria falsa da Saint-Cyr, da Versailles, addirittura da Fontainebleau.